E come annunciato, tra l'altro, dai rumori di fondo, abbiamo stabilito questo contatto con una compagna italiana che, tra l'altro, in questi giorni è diventata un aggiornamento costante nelle ultime 48 ore da Barcellona. Insomma, è stata sentita più o meno spesso, però, negli ultimi giorni per aggiornarci sullo stato della campata di Barcellona e in sé. Delle accampadas di tutta Spagna che, come sappiamo, ieri sono state incalzate dalla repressione dello Stato. In particolare a Barcellona si sono riscontrati fatti di insomma, un certo livello di violenza da parte dei Mossos de Squadra. Comunque la mobilitazione apparentemente continua perché poche ore dopo l'intervento all'alba, se non sbaglio, ci senti? Ecco. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno, anche tu sentiamo reduce ovviamente da una giornata comunque immaginiamo molto impegnativa. Scusate la voce. No, tranquilla. Quindi a questo punto ti lascio direttamente la parola appunto per raccontarci la giornata di ieri a Barcellona e se hai avuto modo anche un po' nel resto della Spagna, perché insomma come si può vedere bene dal web, la repressione di Barcellona è stata tra l'altro accompagnata da una reazione solidale da molte altre piazze della penisola iberica. Guarda, parlando di Barcellona, la situazione in questo momento è ritornata sotto la normalità, se non ancora meglio, nel senso che ieri mattina, alle 6 di mattina, i Mossos de Squadra hanno tentato a sgomberare la piazza, dichiarando sostanzialmente che volevano effettuare uno sgombero delle cose che erano presenti nella piazza, quindi di tutte le strutture, di tutte le tende che stavano occupando la piazza, per un motivo di ordine pubblico che si chiama Partito del Barcellona di questa sera. La lettura però che facciamo noi ovviamente è che questo sgombero è uno sgombero politico, perché levando tutte le striscioni, levando tutte le strutture che erano state montate, hanno cercato di svuotare il contenuto politico di questo movimento. La reazione è stata oltretutto anche gestita molto male, tutta la società civile di Barcellona, come anche la politica istituzionale, sta chiedendo al dato di oggi la dimissione del signor Felip Puig, che è il consiglio interiore, quindi fondamentalmente il capo dei Mossos de Squadra, e con il fatto che i Mossos de Squadra non sono riusciti a sostenere questa situazione, una gestione pessima in cui i manifestanti hanno letteralmente fatto scappare i Mossos de Squadra dopo 4 ore di tafferugli. Ricordo che ci sono 127 feriti, di cui 4 molto gravi, e di questi 4 uno è veramente molto grave. Al dato di questa mattina io non so com'è la situazione di queste 4 persone gravi, però ieri questo compagno che è stato operato d'urgenza perché era stato raggiunto da una pallottola di gomma nei polmoni, perforandogli i polmoni. Quindi, che dire, la piazza continua, ieri una concentrazione di 50.000 persone continua a determinare la volontà di occupare questa piazza, in tutta Catalogna sono state sgomberate però altri due accampamenti, che sono quello di Lleida e quello di Tarragona, e a Lleida addirittura c'è un arrestato. In tutto ovviamente lo sgombero di Piazza Catalogna ha generato una forte solidarietà in tutti gli accampamenti, c'è stata una coordinazione costante, una comunicazione. Di questi per chi lo vede dall'Italia, ci chiediamo dopo ieri, tra l'altro, lo sgombero è leggendo il vostro blog, cioè il blog dell'accampata. Vedevamo che è andata a colpire anche molto questa organizzazione. L'intervento dei Mossos con sequestro di computer e altre attrezzature. Se non sbaglio, quindi. Guarda, sono stati sì, allora, inizio dicendo che l'organizzazione è impressionante. L'Assemblea Generale ovviamente sono state divise in differenti commissioni. In totale a Barcellona sono 15 commissioni. La comunicazione è stata interrotta perché il vostro. Come sentite, abbiamo avuto un problema con la scheda internazionale. Adesso ristabiliamo il contatto. Qualche minutino, qualche secondo di musica.